cristiane e cattoliche di questo Buonaiuti perseguitato, e così via. C'è una serie di altri libri che non sto a menzionare. Quindi a 30 anni quest'uomo è al centro della cultura antifascista di Milano. Libreria viene chiusa nel momento peggiore della dittatura, e poi c'è Bolzano, cosa che sappiamo. Non racconto l'esperienza bolzanese, che è nota, ma vorrei solo mettere alcuni punti. Più divertente è questo: viene incarcerato, picchiato, torturato, eccetera, e c'è la sua prima lettera alla moglie, vero? Ah, Mariuccia, sei il mio grande amore, sei un tesoro. Per favore, mandami subito la filosofia della storia di Hegel, la storia d'Europa di Croce, i riflessi condizionati di Pavlov, un libro sull'illuminismo, una fila di libri. Perché? Perché era in galera, aveva tempo di studiare, finalmente, non aveva preoccupazioni. Questo vi dà l'idea, e anche altre volte in vita sua, infatti era un lettore formidabile, no? Ovviamente c'è l'altro aspetto, che magari è più importante: quando prendono Longon ed è chiaro che la campana del CLN suona a morto, lui raduna i membri del CLN, e che qualcuno vuole scappare, è umano, e lui dice: adesso tocca a noi, in qualche modo ce la caveremo, cioè per non colpire le famiglie. Allora viene torturato, e lì si vede questo misto puritano di spiritualità e di furbizia. Non vi scandalizzate. Cromwell diceva: fida in Dio e tieni le polvere asciutte. Lo arrestano, hanno una finezza, il colonnello Schiffer, che fu fucilato dagli inglesi, doveva essere proprio tanto cattivo, va bene? Allora, lo mettono vicino a sala di torture, che senta le urla dei torturati, dice: che bello, ho tempo di prepararmi. Si prepara in meditazione, era uno spiritualista, non era calvinista, il suo unico difetto, vero? Si prepara in meditazione e in preghiera, dopodiché, siccome non lo chiamano, inventa una finta confessione che è un capolavoro. Entra, questo me l'ha raccontato a me personalmente, entra a sala di tortura, si leva la giacca, Guten Tag, dice al colonnello, e gli parla sempre in tedesco, guardando negli occhi, finché il colonnello non lo riduca a una cosa, vero? E resiste, vedendo una grande luce in fondo, no? Alla fine confessa, esatto, alla fine confessa. Allora ha trovato, appena va nella sua cella, gli fanno vedere la moglie, vero? E i due si guardano. E basta, questo è l'amore. Intelligente. L'amore non è sempre stupido, lo è spesso, no? Però si guardano e stop, non una parola. Ma nella cella piglia, Dio sa come, pezzi di carta, scrive un po' perché tutti gli altri del CLN sappiano che cosa confessa. Questa Aldo l'ha trovata, che il libro era già stampato, ma è di un divertente incredibile, perché lui dice: ma per carità, questi qua avevano fame, gli mandavo qualche pacchetto con la marmellata, non precisa che nei pacchetti c'erano i seghetti per segare le sbarre dei vagoni, e quei seghetti hanno salvato 80 persone, che non è poco, vero? Dice: ma poi io all'evasione ero contrario. Certo che una volta che erano scappati dovevo pure dargli una cioccolata calda, cosa volete? Poi accusa ferocemente 7-8 morti e inventa qualche personaggio, anche Gervis, il grande eroe valdese, fatto la stessa. Quindi è un capolavoro, la situazione è tragica, ma devo dire, a me leggerlo, perché poi fatto proprio bene, la struttura di una confessione di uno che è finalmente ceduto, poi dopo non resta nulla, e lui risulta un povero filantropo, Piemonte dice un buon uomo che vuole aiutare la gente, mandandogli maglioni, eccetera. E finisce dopo aver letto tutto Hegel e Croce, eccetera, finisce la detenzione e la moglie corre ai cancelli e lui non c'è, perché è in meditazione, preghiera nella cella, per concludere l'esperienza come l'ha cominciata. Però è un puritano. Allora saluta la moglie, un bacino, poi fila a casa, farsi la barba, farsi la doccia ed andare con De Angelis a trattare la resa di Wolf e Fittinghoff. Io me ne ricordo quei due lì, vero? Trattare la resa per quanto riguardava il Sud Tirolo, vero? E lui sapeva il tedesco meglio di tutti, perché aveva studiato in Germania, quindi questo è, diciamo, un pochino l'uomo. con grande dispiacere di GL Gobettiani, nel lager prende la tessera del PC che è riprodotta qui a cura, tessera stampata nei mesi della detenzione. Allora Enrico Serra questo non gli ha mai perdonato, no? Perché poi io, molti parenti furono partigiani, qualcuno anche inviato nell'aldilà. Allora tra GL, Garibaldini e Autonomi si amavano con un amore un po' tempestoso, no? Rimane il fatto che questa scelta Gilardi la fa. Lui è vero, dice a Prodo a Treviri, è vero che ha letto Marx, cosa del resto rarissima, perché io ho vissuto il 68, erano tutti marxisti, non ce n'era uno che l'avesse letto, e l'unico che l'ha letto era Collotti, e sapete che fine ha fatto. Enzo Collotti era il maestro dei rivoluzionari del 68. Mi spiace per te. Lucio. Non Collotti, scusate, no. No, Lucio Colletti. No, Collotti è un storico. Allora, in realtà, da quello che ho capito io, non c'è molte tracce, non dico del materialismo dialettico, ma neanche molto del pensiero gramsciano, anche perché Gramsci non era ancora pubblicato, non arrivava lì la tradizione orale che arrivava ai militanti del partito. La mia impressione è che sia la classica adesione al PC, diciamo togliattiana, antelittera, ma Togliatti era già tornato, comunque sulla base di un programma. In sostanza lui vede nel Partito Comunista questa grande forza popolare che ha avuto tanti martiri nelle galere e nei combattimenti e che è una forza morale nel paese, questo mi pare. Tant'è vero che nel 56, dopo i fatti d'Ungheria, non pianterà nessuna grana, ma non rinnoverà la tessera del partito senza cambiare le sue opinioni. Io mi ricordo, stavo a Cinisello, dal 66 in poi discutevamo spesso e lui, quando voleva farmi un grande elogio, mi diceva: somiglia a Togliatti. L'ho detto agli studenti, mai più l'avessi fatto, era meglio che somigliasse a Belzebub o non so che cosa. Certamente la cosa notevolissima è questa, che lui è, con Donini, con tutti gli altri, è pienamente inserito nella storia reale e affronta questa storia reale con coraggio fisico, non c'è dubbio, con coraggio spirituale e con un bagaglio culturale che gli permette di distinguere il grano dalla pula. Ecco, questo è, non è facile la lettura dei testi perché lui ha uno stile suo tutto speciale. A quell'epoca noi stavamo a Cinisello Balsamo e avevamo fatto una comune, figuratevi, metà PC, metà calvinisti, quindi per carità, peggio di un convento, un rigore incredibile, eccetera, vero? Beni parzialmente in comune e tutti gli insegnanti, una scuola, gli insegnanti erano obbligati a pagare per avere l'onore di insegnare agli operai nella nostra scuola. Proprio così, calvinismo eccessivo. Gilardi non disse nulla, ma una volta disse: vi invito a pranzo. Venne nel grande salone della nostra rigorosissima comune detta Centro Jacopo Lombardini e ci preparò un pranzo favoloso. Era il pranzo di bavette in anticipo. Ed era un modo per dare un messaggio di dire: non esagerate ragazzi, siete un po' troppo, avete un eccesso di militanza. Ecco, questo diciamo sono i gesti della sua vita, ce ne sono stati moltissimi e non li... alcuni non li conosciamo proprio, eccetera. Una cosa che desidero dire è questa, che potrà fare anche male ai familiari: all'età di 66 anni, un figlio dorme con lui, perché erano in povertà in quel momento, lui si alza alle 3 di notte, dice: sono pronto, vengo. L'ha detto a Mariuccia, l'amore unico della vita, l'ha detto al Signore. Propenderei per questa seconda ipotesi, ma uno che dice una frase così e un minuto dopo prende l'infarto, un uomo che i suoi 66 anni di vita li ha in qualche modo vissuto, impegnato nella Chiesa, queste cose le ha vissute fino in fondo. Ultimo pezzo, lui era membro attivo della sua Chiesa, Chiesa Metodista di Milano. Era membro attivo, stette anche nel consiglio, stava nella conferenza metodista, che era diciamo il sinodo dei metodisti, aveva uno scambio epistolare con Spini, però Spini non era contento che lui fosse diventato comunista, comunque si scrivevano, eccetera. E una cosa, io allora dirigevo un giornale giovanile, Gioventù Evangelica, che era pieno di oltranzismi, confessiamo pure la verità, vero? E che suscitava molto scandalo. Allora, gli scandalizzati, fratelli e sorelle in fede di destra, scrivevano a Gilardi, e noi abbiamo le risposte, ne abbiamo pubblicate anche un paio. Erano gente di opinioni opposte alle sue, ma il rispetto con cui lui discuteva le idee di queste sorelle e fratelli in fede era straordinario, senza atteggiamenti pedagogici, senza dire adesso ti spiego io, tu non hai capito nulla, ma sicuramente credeva nel dialogo, viveva nel dialogo, e questo è notevole. Fu uno dei pochi protestanti italiani a dar subito un giudizio positivo sul Concilio Vaticano II. Lui mi disse: voi valdesi avete troppa paura, vero? È vero, ma abbiamo anche una storia con talune esperienze non proprio gratificanti nei secoli. E lui disse: no, la questione è vedere se il Concilio riesce, sì o no, a ridimensionare il potere della Curia Romana e a incoraggiare le nuove correnti teologiche. La seconda cosa è accaduta, la prima direi che non è accaduta. Però lui fece articoli sui giornali evangelici spiegando questa sua posizione, mentre un nostro grande teologo, il professor Vittorio Subiglia, diceva una serie di niet, uno dietro l'altro, che erano molto belli, ma che in definitiva non ci hanno aiutati. In questo c'era il marxismo di Gilardi, cioè badava al reale movimento della storia, non ai nessi ideologici, semplicemente, proprio perché era uomo di cultura, eccetera, e badava a questo. Io in casa sua ho scoperto la rivista trimestrale di Franco Rodano, cattolico comunista. Rodano per me era di un cattolicesimo un pochino troppo rigido, però una grandissima rivista, leggevo in casa loro, c'è un articolo di Rodano che cito nel volume, che non dimenticherò mai, sulla genesi della Prima Guerra Mondiale. Rodano dice: Prima Guerra Mondiale hanno scatenata le aristocrazie europee per paura dei socialisti. Questo con l'appello patriottico. Comunque, questo per dire, riceveva le riviste democristiane di sinistra, lui non lo era, ma comunque le riceveva, e noi ne abbiamo tratto, devo dire, un beneficio grandissimo. Concludo. La sua vita fa pensare a un famoso evangelico, Hammarskjöld, del segretario delle Nazioni Unite, come sapete fu ammazzato perché voleva la pace nell'ex Congo. Beh, una persona sicuramente di profonde convinzioni cristiane, nel caso protestanti, ma ecumeniche, che però gli permettevano di agire nel mondo civile in perfetta laicità. Per lui era insensato contrapporre laicità e fede, dice sono due terreni diversi dell'esperienza umana, però questo c'era. Hammarskjöld lo stesso, come segretario delle Nazioni Unite, non fu ideologico per nulla, si è lasciato la pelle, fu vero. E in questo senso direi che rievocare oggi la sua figura significa tenere presente un problema che a noi è rimasto. Sta nascendo in Italia un'ondata anticlericale, non voglio dire chi è il colpevole, però non sono gli atei, vero? Sta nascendo un'ondata anticlericale che però molte volte butta via il bambino con l'acqua sporca, vero? Perché mio amico Flores d'Arcais, per essere ben sicuro che ha ragione lui, deve dimostrare che Dio non c'è prima, ogni pagina, no? Che Dio non c'è, dopodiché segue tutto il resto. No, non è strettamente necessario questo. Penso che se l'Italia si ripolarizzerà tra clericali e anticlericali, non sarà bene per nessuno, né per i credenti né per i laici, e per noi protestanti che come al solito saremo messi da parte da tutti e due. Però è un esempio: religiosità vissuta ma non ostentata, fedeltà alla Chiesa, azione politica marcata, coraggio personale, la tortura, non paragono i sei figli alla tortura, però allevare i sei figli senza soldi non è roba da poco. Ecco, se nella Chiesa Evangelica ci fossero i santi, direi che abbiamo commemorato un santo. Avete sentito, non mi ripeto. E siamo un'autorità rappresentanza della nostra famiglia. Siamo lieti di queste occasioni che ci sono di poter presentare qualcosa che ci appartiene ma che non è nostro. Come ogni cosa che esiste, non possiamo, riteniamo, possederla fino in fondo, né ritenerla una proprietà propria. Tutto quello che abbiamo, siamo stati formati in questo modo, è un dono, una possibilità delle occasioni di ricerca in occasione del centenario delle nascite dei nostri genitori e del sessantesimo della Resistenza, sono stati coinvolgenti, sono stati pesanti da un certo punto di vista emotivo, ma riteniamo che abbiano avuto un senso, un valore, e questo risultato che è qui in queste pagine ci è grato, ci è piacevole di condividerlo con tanti, nell'ambito di quello che è il progetto della memoria, che anche qui a Bolzano è abbastanza coltivato, e che auguriamo che possa, il progetto che è stato presentato l'altro giorno, possa continuare a crescere a partire da qua in tutta Italia. Abbiamo infatti dedicato il libro alla memoria, è un progetto del futuro, e quindi la dedica del libro ai giovani, ma siamo molto lieti che ci siano molte persone di una certa età che quei momenti hanno vissuto e che possano, ecco, dobbiamo trovare poi sempre il momento per trasmettere o per consegnare a qualcun altro delle identità, per utilizzare e far vivere la memoria. Ringrazio la biblioteca provinciale, l'amministrazione provinciale, gli organizzatori, gli oratori, gli intervenuti, e per la partecipazione attenta e che ci conforta, e auspichiamo che possano essere, cioè, altre iniziative saranno in programma. Ritengo che quanto auspicato, un approfondimento delle figure, non in quanto Tizio e Caio, ma in quanto rappresentanti di quello che molte persone di quella generazione in quel determinato momento storico hanno fatto. Una cosa, lo ribadisco, che è stata sempre presente nell'ambito dell'azione dei miei genitori è che le cose si fanno non per sé, le si fa insieme ad altri, per il bene di altri e di tutti possibilmente. Grazie. Scusa, ma gli altri rettori hanno dimenticato di dire che il libro è in vendita.